cervellino, boccaccio la pasta, è pronta. Attento Billy, Billy, Billo, boccaccio la pasta. Dall'altro, ciao Mari. Ma chi è? Biondo. Oh, signor Manuele. Ehi, sono il più piccolo dei di Santa Maria di Pisa. Non mi parli di... Diavolo, casa mi va che adesso passa. No, a casa già si sta bene adesso. Ma già passi a cacio di tutta Valiente. Ma come non arrivo sul conto di Samaroli a rimane? Oh, si stava bene, anche di notte. Ehi, di notte non ci siamo. Noi rimaniamo solo quando siamo di giorno. Di notte siamo in macchina. A noi ci interessava quando c'era le punte dalle 2:30 e poi la mattina dalle 10:30 mi stava a scaldare. Certo, vabbè. No, decidi. No, no, è meglio. E mi dici con che... È meglio fuori. È posto, è meglio volare, sì. Infatti la notte sto in macchina io. Lo fiocco dentro un gabbiotto. Cazzo, è due ballui. Io da te. Se fa lui. Che descritto nel vegliato. Faccio da noi, se ne fa di cosciere tu. Ma pensa a quei gabbiotti che usano lì, dove c'è la sbarra lì a... ma al Corti. Uguale a quelli, piccolini così. E poi dove siamo noi non ci voleva così, volevano quelli con i vetri, in modo che venivi da una parte all'altra. E invece così non vedo un cazzo. Andiamo. Andiamo arrivati sul gabbiotto, in modo che vedi solo una parte solo, dove il cancello è buco. E dall'altra parte non devi mai dare. Ma devo uscire fuori ogni volta. Ho una finestra, dai. Certo, dai. E poi c'era una finestrina che si poteva vedere ogni tanto. Ma il manco di arrivi anche se ne posso un lungo di Sanaroli. Sono più tardi. Sono più di più, non hai compreso. Ma ci sono gli altri gabbiotti più grandi. Ecco cos'è, erano i buoni. No, già c'erano, già via, solo di quella mandoria non ti hanno arrecato, loro hanno messo, hanno fatto prima mettere questo condizionatore qua, in un'ora e mezzo hanno fatto tutto. Ma non ci sta, cosa, ci sei solo tu cosa, rinfresca e ti gela anche. Ah, vabbè, adesso già va bene, cazzo, non manco, non morire di gas. Adesso già va bene, sì. Io, Giulia, dai. In Sardegna siamo. Sì, in Sardegna, non è solo in Sardegna, no. E tutta Europa è così, ecco le Sardegna. Sì. Ma mi sa che andiamo in guerra, andiamo, se continuano così. Ma meglio che continuano la bella gatto fucilata, a Romaco gatto, che passa la macchina a gamba anche duro. Hai se gatto di un primo, lo gatto l'abbiamo avuto di, e deve cazzo la e deve essere tutti che si cazzo maniatori, a Roma. Che si è assicurati, sono già niente di andare a non riboccare. A noi ieri gli epifani. Per carità, tutto banco e pari che si è aggiato, ciucciamino si è aggiato. Come ti la chiamano, nana di merda, chiamano, cazzo. E purtroppo è così. Purtroppo non ci puoi fare altro. È così. Per carità. Da un po' di lì che non si intende a nessuno, cosa sto facendo? Tutti al mare? Sì, e io, cazzo, ho fatto 2 giorni la notte, cazzo, se vuoi, allora la macchina, quando arrivavo a casa, cazzo, mi si coccavo, anche il baracchino, Io mi ci sto un pochettino a voi, Sarro. Come mi mandano un buongiorno all'aria aperta. E adesso vado, ci sono queste 4 andò qua, non penso che caso mi ha attaccato la malacchina. Mi fa caldo pure in odio, faccio un ricordo di sale ma non l'accendo. Oggi se ne accendendo in gettato. E consumano quelli di malacchina, no, io ho il ventilatore, tu abbassa il ventilatore. La notte me lo tengo tutta la notte accesa, quando arriva una certa temperatura che arriva la rietta per 7 di mattina, allora mi richiudo. Vabbè che questi due giorni sono facendo la notte, poi quando sono a casa me lo tengo tutta la notte accesa io per tirare. No, questo si può dire che il condizionatore più e poi c'è un altro più, hai compreso? Non consuma nulla questo. Sono con la basso consumo. È regolato ancora con il basso consumo, è regolato. Andare, no, io ho questo ventilatore di qua già cazzo devo fare, lo volevo mettere anche io, due, uno nel corridoio che circolava nelle stanze, che circolava anche in sala, e uno in cucina che qua, cazzo c'ho la vetrata che qua minimo, quando batte il sole dalla mattina fino alla sera ci sono 40 gradi. Aspetta, no, io ce l'ho dalla parte, dall'altra parte del poggiolo, ce l'ho, ci metto la tenda e il fresco già c'è. La sera i lavori cominciano a servire il gas, ecco cosa è. No, qui la sera già si sta bene, perché abbassa il sole. Qui non puoi mangiarci il mezzogiorno, infatti mangia in sala, è più ombra, sono non è basta, mangio lì. Io d'estate non ci mangio mai d'estate qua al mezzogiorno. No, dopo c'è fresco sempre bisogna mangiare, anche se no dopo ti viene la sonnolenza. No, a me non lo so, io non lo sopporto il caldo. Io il caldo è proprio zero assoluto. E fai bene. E fai bene. Ecco cos'è. Per carità. Lasci perdere, ma per carità non c'entra oggi. Qui adesso finirà, mi sembra a settembre, finisco. Poi non si sa se dobbiamo andare a Portatore, se nell'alto asfalto. Ma invece io ho ragazzato il suo aggassamuto in via Tempio, al cupo, e mi sono prenotato le codople per il 30 settembre. Anche io devo fare quello lì, ma che cazzo ho chiamato, mi hanno detto l'hanno detto a Cagliari, cazzo a Cagliari. Ah, io stamattina, ma ce n'erano anche in due posti, nel mese di luglio, c'erano. Ma detto, dice, li vuole per luglio, lo vuole. No, ho detto io, sto cercando per ottobre, perché poi a dicembre c'ho la visita diabetologica, e quindi devo averlo più vicino possibile. Mi ha dato visto dal 30 settembre, mi ha dato. Se io devo fare quattro visite, ho chiamato. Devo fare la visita quella del collo, al collo, quella dei nervi del collo, poi quella del cuore, poi l'altra, quella della, se sei diabetico. E mi hanno detto che non c'erano posti, bisogna andare a Cagliari, cazzo a Cagliari. No, l'unica cosa che devi fare, fate impegnative, è andare al culto. Se telefoni devi venire in avvenuta, ecco cosa è. Invece vai in via Tempio, c'è questa signora che dice tutto, dirigi. Se viene o non viene. E se c'è, te lo prenota in casa, poi ci torni a andare e te lo chiedi più la prima possibile. A una ce la sono andata a cagare, a una del culto. Grazie. era stanca, no? Se mi ha fatto ripetere al dottore, a me mi ha detto di chiamare a voi. No, non dovete chiamare, dovete andare a chiamare. Ma dove cazzo devo chiamare, scusa, Ma stavo scherzando. Monica Gosa è un bacio di persona di quello di Via Tempio. Ci mette una mezz'oretta in più, però quando sei lì ti dicono tutto, ti dicono se c'è o non c'è. E se c'è te lo fanno subito, per quando vuoi. Adesso tanto mi sa che sono scaduti già. Devo andare, fammi rifare l'impegnativa e tornare a... non fissare l'appuntamento. 186 giorni dura l'impegnativa. Allora ancora il cazzo. Allora già 2 settimane che li ho fatti, 2 settimane buone. 186 giorni dura, quindi quasi 7 mesi dura. E allora? A voi da Giovinetti. A me mi ha detto, dice, sino a fine anno lì è a posto con l'impegnativa. Guardate che scala, non scade questo, stia tranquillo. E poi c'è scritto nell'impegnativa quanto dura. E adesso devo chiamare, domani faccio chiamare, vabbè, perché io sono a lavoro. Faccio chiamare e vediamo un po' cosa dicono. Manuel, te lo sto dicendo, se non puoi salire domani, ci sali lunedì, martedì, quando puoi salire. È meglio andarci di persona. Beh, una signora, che sei signora, ogni volta che ci appaghi, sono sempre fortunato. Lo so, adesso vediamo, se ci vado su direttamente con l'impegnativa. E vediamo un po', perché devo fare l'analisi del sangue pure, vabbè, l'analisi del sangue le faccio su Galumberto, che sono bravo, sono veloci. E più a basso piace cambiare io, e sono veloci. Allora, l'altra volta, un quarto ne ero già fuori. Sì, ma anche Galumberto già sono in gamba, dai. Anche lì, poi l'ho fatta, dove io l'ho fatta? L'esame del sangue li ho fatti, adesso non mi viene bene, no, Galumberto è l'altro, in Via Tempio, ed erano bravi lo stesso, gli ho detto ma non è che mi devi torturare, no, a fare un prelievo del sangue, no, meno male c'era questa ragazza qua che era brava. Quello di stamattina in Via Tempio non c'era quasi nessuno quando sono andato. Erano 10:25 e non c'era più nessuno. No, già ce n'è gente brava. Qualche luna trovi pezzo di merda, però già ce ne sono brave. Ah, tanto che sei lì, vi attento che poi fa tutti i chili, mi si fu. Ma il sangue, le cose del sangue sì, ma le altre visite non te le fanno lì. Vabbè, ma lì al cupo che poi chiede, ti mandano il giorno, per esempio per luglio, ci sono le visite, ma detto che ci sono quasi tutte le visite. E adesso torno anche a domani, faccio chiamare, domani mattina lo chiamo io, vediamo un po'. Perché devo fare quella del collo, adesso non mi ricordo come cavolo si chiama, quella del cuore e quella della glicemia devo fare. Sì, ecco dopo devi fare il prelievo e quelli devi salire su a cosa devi salire. Per fare la glicemia devi salire su a residuo, devi salire. Alberto, buonasera, ciao Manuel. Buonasera Gio Maria, siamo proprio bene dei dottori. Ehi, via, per carità, via, cazzo è inutile, siamo andati per giurare invece migliorare, via, io l'ho fatto la vita ieri alle 4:30 all'ospedale di Alghero, puoi immaginare. cappuccini che mi stavano bevendo. Allora sono andato a farmi, però male mi avevo altro appuntamento lì. E ieri sera sono sceso e ve l'ho fatta. No, io ero, stamattina sono salito sui Via Tempio al Cucu e mi sono prenotato per le conople per il 30 settembre. Ma volevo per metà ottobre, se me l'hanno data per il 30 settembre me l'hanno data. Ah, gli tu, prendiamo questa, tanto non ce n'è altro, quindi tengo questa. E andare. E ho trovato quella lì. Con la dottoressa che ce l'ho, diabetologo, che ce l'ho la visita a dicembre, il primo dicembre c'ho la visita oculistica, quindi va giù di io, quella del diabetologo, ce l'ho a settembre, mi sembra il 23 o 24, mi sembra che sia di settembre, per cui da poco questo è andato, capito? E per cui avevo già fatto. Adesso fino a settembre sono tranquillo. Visita qua, visita là, via. Non ce ne sono appuntamenti, ragazzi, non ce ne sono, ragazzi, no. Devo fare due o tre, devo fare ancora. Però se non c'è un appuntamento cosa fai? Nulla. Bisogna aspettare e basta. Ma che sei il Fumanzano al cupo di Via Tempio, mi ha detto che ero fortunato. Perché l'ecco dopo se ce n'erano anche due a luglio. Ce n'erano, ha detto no, a luglio no. Se ce l'ha per ottobre, mi ha detto dice per il 30 settembre, la vuole. La giubilia dove mi siamo giubilati. E mi ha detto che ero fortunato. Puoi immaginare, per carità. No, adesso devo fare, dunque, elettrocardiogramma, però quello è a ottobre, devo fare elettrocardiogramma. Poi altro, un altro devo fare, per non mi ricordo per cos'era. Allora mi la metto più, già ce l'ho segnato. E due o tre devo fare ancora, dai. Chissà riesce a prendere l'appuntamento. No, quello del cardiogramma ce l'ho il 23 settembre, ce l'ho, alle 10, ce l'ho, il 23 settembre, sperando sempre che non mi ripuglia. Vabbè, l'importante è che io si tira avanti alla bella miglia, affinché no, però è un rimbus, che ci ho fatto appuntamento, un rimbus veramente. A Cagliari non ce ne sono se vuoi andare, ma a Cagliari, ma dicevo per una cazzata ci devo andare a Cagliari, non saranno. Infatti, vedete cosa, stasera volta mi vogliamo andare a Cagliari, lei ha detto di no. Cazzo qua, non c'è, quello che ho fatto ieri qua a Sassari non ce n'era, non ce n'era appuntamento, abbiamo già fatto ad Alghero, in 3D mi ha detto farà e me l'hanno fatto la malasera, ma da vedere, e io che qua non c'è posto, per nessuna ragione. Loro mi dicono così che non c'è posto. Non so niente che non vuole lavorare, se piace lo stipendio senza far nulla, ecco cosa è. E questa cosa la regione sta togliendo. È un macello, cioè, un macello veramente. Va bene, detto là, chiudo, all'avviso col gruppo. Non ne ho voglia, non ne ho voglia, sono intorno perché ti ho sentito. Emanuele, forse ha chiuso, Emanuele. Ehi, qui stavo ascoltando, mi stavo girando quei fili d'aniere che mi sto cucinando e vi stavo ascoltando. Ehi, è tutto così, è tutto un casino, ma che visi. È un macello, Manuè, un macello veramente, perché se invece mezz'ora siamo peggiorati. Va bene, Manu, dai, vi ho sentito, mi fa piacere, dai. Buon proseguimento di serata, ragazzi, sentiremo altro momento. Riprendito, io chiudo. Ok Gio Maria, risentirci alle prossime. Ciao Gio Maria, stammi bene. Avanti Emanuele, ti saluto io buona da voi. E anche io chiudo che poi mi guardo un po' di televisione. Ciao Gio Maria, mi ha fatto piacere sentirti. Dai, ce la riascoltiamo, dai, in caso di essere in quelle zone lì ci facciamo una chiacchierata, ti chiamo. Vai so. Sì, ok, ci risentiamo, Manuel, alle prossime. Sì, io mi voglio un po' godare a Buda. A risentirci. Ciao Tom. Un po' di arietta sta girando, meglio, dai, ma così ritira un po'. Ha detto che in questi giorni qua dice che mette va più giù, che si abbassavano le temperature, pure, speriamo. Ma non è noghi, ha giubito, non è noghi. Al centro della Sardegna, parte di nuovo, Rosì, di tutte quelle parti. Sì, cazzo, vabbè, dai, purcate, ando con il giacchetto, prendiamo un po' con l'aria fresca. Sì, la rega non può gallura. Ciao, Manuel. Ciao, Manuel. Sì, ciao. Tutti chiudendo state, vabbè, era peggio per voi. Ciao a tutti, Manuel.